Mi copi 10. Mi copi 10, mi copi? Va. Come va? Finalmente qualcuno in giro. Qui è la stazione del doppio numero, con chi non voglio parlare. Qua Valentedu, c'hai un po' di riverbero, ma hai qualche effetto? Cosa c'ho, riverbero? Sì, un po' di riverbero, piacere comunque di sentire qualcuno. Falcuno? Confermi Falcuno? Ti ascolti? Sì, ti sento, c'è un po' di riverbero. Guarda adesso. Adesso molto meglio. Scappa, da dove sto parlando? Io da Sassari, che zona? Zona via Balbeta, dai. Via Mendola. Kappa, sei nuovo? Sì, nuovo, finalmente mi sono preso l'apparato 2-3 giorni fa e dopo 20 anni ho ripreso. Scappa. 20 anni, e con che nomina TV uscivi? Io uscivo come Malenteddu ai tempi. Come? Malenteddu, è presente Malente, piccolino, Malenteddu. Malenteddu, non l'ho mai sentito. Cioè ci sono tanti anni fra questo, ma non l'ho mai sentito, questo nominativo, magari non abbiamo avuto modo di modulare assieme. Come mai questa idea di riprendertelo? Ma un po' di revival, forse tu ti ricordi mio fratello, Sguscio, l'hai mai sentito Sguscio? No, negativo. Falcone, te lo ricordi? Chi? Falcone, te lo ricordi? Falcone sì. Noi modulavamo in quel periodo in cui Falcone era in auge, ma modula ancora Falcone? No, c'è una di... No, adesso abita con la sorella, non gliel'ha fatto più mettere, glielo volevamo comprare l'apparecchio, ma la sorella non vuole. Non vuole ammetterselo, perché lo fanno incazzare troppo. Ma non puoi fare il gioco della calza. Cavolo, già me lo ricordo, era simpaticissimo comunque Falcone. Era matto, non era simpatico, era suonato. E tu moduli da sempre, non hai mai interrotto? Sì, per 10 anni ho interrotto, poi ho ripreso. Ma avevo sempre l'apparato, stavo in ascolto, avevo sempre l'apparato portatile, poi mi ho rifatto tutta la stazione. Kappa. E in giro chi c'è? Come? In giro gente ce n'è, ho trovato poca gente. Siamo rimasti in pochi, però siamo pochi ma buoni. Prima c'era un casino nero, portanti, adesso ci sta meglio. Kappa. Ascolta, che canali? 10 ho visto. Non ho capito. Ma che antenna stai usando? Sto usando una magnetica sul terrazzino da 1,20 m. Arrivi bene per essere con la magnetica. Che antenna è? Una PNI, ce l'hai presente quegli apparati piccolini, quelli microscopici? Sì. Un Escort 6005. Ho capito. Ma la metti in macchina? Kappa, l'idea è quella lì, adesso me la sono accordata con un rosmetro giusto per fare delle prove, ma un apparato base. Adesso stai uscendo bene, è tocca. Kappa, sono contento, almeno ci divertiamo. Adesso stai uscendo meglio anche di radio, cosa gli hai fatto? Ma niente, qua ho semplicemente c'ho una specie di tralicetto che porto fuori dal terrazzino, però io sono all'ottavo piano, eh. Ah, quello è. Quando sei in alto così. Scappa, e tu che antenna hai? Io ho una Superlem sul tetto. Una Superlem è abbastanza grande, come antenna, una 5,80. Aspetta, ma qua stiamo parlando con professionisti, Baro. Mettitela perché va bene. Quella è una bella antenna. C'ha tutto in acciaio, la parte dove entra il tubo è tutto in acciaio, fatta bene. Ma tu sei radioamatore o giusto CB? CB. Anche SWL. Ho capito, mi ricordo. Io ricordo anche il packet una volta, non c'è più, vero? Chi? Packet, ti ricordi quando si collegavano i computer? No, non ti ho capito cosa hai detto. Parla piano. Una volta c'era il packet, cioè praticamente quei programmi in cui si collegava il computer, no? Ah, il packet, sì, ho capito. Non c'è più ovviamente, no? Tuttora si usa, chi lo usa, non tutti lo usano però. Quello ti faceva vedere dove c'è la propagazione, tutto qua. Cappa, me lo ricordo. Mio fratello è un appassionato, se riesco gli faccio mettere su l'apparato, lui c'ha una barra fissa, lo stesso, però a Tissi. A Tissi? Cappa, a Tissi. Beh, in giornate di propagazione, secondo me, riusciamo anche a sentirlo. Io già ci posso arrivare tranquillamente a Tissi. No, non è quello. Non è un problema, ci arrivo. Ma diciamo che la propagazione c'è anche oggi, ho sentito gli spagnoli, non so se tu li senti, ma io poco fa sul 9 ho sentito gli spagnoli. Cappa, no, ancora no, adesso provo a fare un giro, ma ascolta, che canale usate qua, tu che sei esperto? Il 10 solitamente, fino alle 8 di sera, poi tutti vanno a mangiare e qualcuno rientra qualche volta, ma io non ci rientro più, perché mi guardo il televisore a quell'ora. E da che ora inizia a modulare di pomeriggio? Verso le 6:30, le 7 così. Poi sino alle 8 c'è sempre gente. Buona sapere, almeno solo radio in cui trovo gente, dai, giusto per iniziare a fare quattro chiacchiere. Poi a volte anche la mattina modulano, capito? La mattina e anche la notte sul tardi, dipende dalle persone che ci sono. Ma siamo rimasti un gruppetto che solitamente entra quasi sempre, dai. Mi ricordo le notti d'inverno, caspita, quanto ci si divertiva. Bello, e internet si è mangiata tutto. E adesso ci sono i computer, hanno mollato tutto e devi fare. Purtroppo il computer ha rovinato molto lettere. Cappa, ognuno per i cavoli suoi e non c'è più il gruppo. Sì, ma io qua mi sono rifatto tutta una stazione con stazioni base, eccetera. Ho fatto una stazioncina così per averla. E mi sono messo diverse antenne, adesso io ci sono già una quindicina d'anni che sto modulando di nuovo, anche di più forse. Adesso poi non si paga né concessione, né ci vuole concessione, né ci vuole, non bisogna pagare la tassa, quindi si è liberi. Capa, quello l'ho letto anch'io, infatti è strano, adesso che non c'è più nessuno hanno tolto le tasse, cacchio. Ma non so se da che punto vada bene, perché non si è tutelati, adesso non pagando la tassa non si è più tutelati, prima dicevi io pago la tassa, se qualcuno ti diceva che disturbavi roba del genere, io pago la tassa come la paga lì, vediamo poi chi è la colpa, se è mia o sua, adesso non puoi più dire nulla. Cappa, è così, e se qualcuno inizia a mettere portante non puoi neanche più dire nulla, hai ragione. No, ma non solo la portante, è una questione anche di piazzare antenne, ci sono i condomini che non te le fanno piazzare, prima arrivavano scomposte, a voi le hai piazzate. Ah capo, ho capito, quindi adesso non c'hai più il foglio che ti consenta di avere qualche diritto, insomma. Io la concessione ce l'ho sempre, ma no, non l'ho più rinnovata perché non si rinnova più, ma diciamo che l'ho sempre pagata, e sempre tutti quanti i bollettini pagati, eccetera, solo che non vale niente più. Prima c'era chi ti tutelava e adesso non è più così, interessante avere un apparecchio omologato e tutto lì, in macchina un apparecchio omologato per chi vuole essere in regola, perché se ti fermano hai un apparecchio omologato e non ti possono fare nulla. KK, l'uscita massima è sempre 4 watt, è vero? Come? L'uscita massima consentita è 4 watt, è corretto? Sì, sì, 4 watt. Sì, 4 watt, 4 watt e mezzo, dipende dalle ditte. Ma comunque c'è scritto quando è omologato, deve essere omologato e con la scritta CE dietro. Sì, KK, questo è piccolino ma è omologato. Io invece c'è il omologame. Carina questa. No, vabbè, è una bella cosa comunque. Sono contento che ci sia qualcuno, perché almeno quattro chiacchiere fa sempre piacere farle. Sì, vabbè, da ogni tanto già c'è qualcuno. E poi se hai anche qualche ricevitore puoi fare ascolto sulle bande radioamatoriali, eccetera, capito? Quindi sempre qualcuno c'è che parla. Cappa, questo è vero. No, io adesso ho solo un 40 canali. Poi mi ero preso un apparecchietto per il computer che va da 0 a 2 GHz, qualcosa del genere. Molto interessante quello, lo conosci? Sì, so che c'è, ma non l'ho mai avuto. Ma al computer ci sono anche delle app che... basta che tu vai in queste app e puoi entrare in frequenze radioamatoriali, insomma, puoi fare tutto come un ricevitore, capito? Puoi ascoltare tutto quello che vuoi, ma la cosa è fredda. Se per dire c'è anche un'app per la 27 che si chiama, adesso non mi viene come si chiama, se mi viene te lo dico, vabbè. E comunque non mi piace, perché a me piace vedere anche l'apparecchio davanti a me quando parlo. Quelle app che dici tu usano la rete, però questo ricevitore usa un'antenna, quindi è proprio un ricevitore che però ha bisogno del computer. Per le app ce n'è una carina della Midland, che è sulle 27 MHz. È quella che ti sto dicendo io, però a me non piace perché è fredda come cosa, non... sono tutte persone che non stanno allo scherzo. Una volta ho detto, posso entrare in questo canile scherzando, e questo si è incazzato, che non lo permettermi, che non maleducato, che qua, ma vaffanculo. Cacchio, eppure questi qua si trovano, vabbè, non c'è quello spirito giusto, va. Non stanno allo scherzo, poi adesso sono a circuito chiuso, se vogliono non ti fanno entrare, secondo il moderatore che c'è non ti fa entrare, capito? È tutto un casino, non ci sono più entrato, si chiama Roger K, ma no, come cavolo si chiama? Non mi viene il nome. Vabbè, comunque è tanto tempo che l'ho staccata, perché l'ho tenuta per un po' di tempo, invece poi non mi è piaciuta più. K, no, vabbè, a me interessa avere un apparato piccolino, io sono sotto i 100 euro al momento. Vabbè, da lì si comincia, poi se ti riprende la passione vedrai che ti piacciono anche quelli grandi. Quello già è vero. Ascolta, ci hai pensato di fare l'esame per radioamatore? Non ho capito, di... Ho detto, se hai pensato di fare l'esame per radioamatore? No, ma non mi piace, mi piace più qua, mi piace più questa frequenza. Me l'hanno detto tante volte di farlo, ma io non ho... è troppo sediosa come frequenza, non mi piace. Mi piace più questa, che è più libera come frequenza. Puoi parlare di quello che vuoi tranquillamente, senza problemi. Poi ognuno la pensa come vuole, io la penso così. A me piace qua, io sono nato qua e mi piace stare qua, punto. Essendo più VL c'era la licenza, facevo ascolto, adesso non c'è più nulla da ascoltare, mi sono sempre solite cose, non c'è più niente, dai. È meglio avere un apparato, fatti quattro chiacchiere, se ti va bene ti fai qualche DX e basta, tutto lì. Ho capito, quella passione, diciamo, bella. Mi ricordo anch'io con mio fratello, quando abitavo ancora a casa dei miei, la notte fin tardi, lui aveva una passione più grande della mia, infatti se riesco a farlo rientrare, lui è uno che ha fatto un sacco di, ha avuto un sacco di contatti di DX. Io ho praticamente una scatola piena di QSL, tutta piena, l'ho conservata. Cavolo, è una bella soddisfazione. E il posto più lontano dove sei arrivato in propagazione? Sono arrivato a Londra, Belgio, Francia, Spagna, Penso che sia le Canarie, tutti quei posti lì li ho fatti tutti. Ce ne ho diverse, là. Poi anche in città, vai, in Italia le ho fatto diverse, anche in Sicilia, ma in Italia l'ho fatta tutta, là. Caspita, una bella soddisfazione. Vabbè, lì fa anche l'antenna, prima c'era l'antenna anche della macchina, io la mettevo in macchina, l'antenna, c'avevo la Sigma di X, ma andava benissimo, quella sparava. Caspita, bello, veramente bello. Adesso mi sto ascoltando in cuffia perché stavo guardando come usciva il radio. Sì, un po' di eco io glielo do sempre perché ti amplifica molto la modulazione, capito? Sì, lo sto notando che adesso hai cambiato l'effetto. Sì, si sente un po', però è meglio di prima, adesso è più chiaro. Mi stavo ascoltando in cuffia, quindi lo so. Cappa, e la mia voce come si sente come audio, diciamo, al di là della portante e tutto il resto? Si sente bene. Cappa. Tu che non me l'ho preso l'apparecchio, l'hai comprato qua a Sassa? No, l'ho comprato su Amazon, era apparecchio e antenna tutto un'unica offerta. L'antenna quanto è grande, mi hai detto? La base magnetica 12 cm e mezzo e l'altezza è di 1,20 m, però c'è anche, è presente quelle viti a farfalla? Sì. E in tutto ha apparato più antenna 83 euro, incluso la spedizione. E ha fatto una farfalla. Cappa, poi mi sono preso il rosmetro e anche una piccola batteria da 7 ampere, adesso sto parlando dalla batteria senza trasformatore, diciamo, alimentatore. Ma l'apparecchio è portatile? No, l'apparecchio è quelli piccoli, se tu lo cerchi anche su internet, su Amazon, PNI Escort HP 6500. Sì, ma vabbè, sarà semplice, squelci, volume e basta, non c'è altro. Di quelli semplicissimi, però va bene, quello di far mettere in macchina va bene perché può mettere a qualsiasi parte. Capo è piccolo, allora c'ha AM FM, poi c'ha diversi livelli di guadagno perché c'ha anche il guadagno e poi c'ha l'auto squelch e diversi tipi di squelch e poi copre tutti i paesi europei nella banda dei 27 MHz. Sì, quello lì con tutti quanti i paesi, tu dove l'hai messo in Italia? Capo, adesso sono Italia e AM, i classici 40 canali in AM. C'è qualche paese che ti dà più di 40 canali? In realtà no, in realtà ci sono su questo apparecchio diverse cose che ci puoi fare dentro se lo apri, ma perdi la garanzia. Puoi arrivare fino a 400 canali, qua è a 20 watt di potenza in uscita, ma con due saldature. Devi fare una modifica. Esatto, fino a 8 watt devi muovere un ponticello, devi fare una saldatura se vuoi aumentare a 20 watt, ma sta già scaldando adesso, a 20 watt secondo me è un passaggio lungo, si fonde. Bisogna saperlo fare, ci vuole saldatore a caldo, ad aria. Cappa, no, ce l'ho quel saldatore ad aria calda, c'ho il laboratorietto su quelle cose lì, già me la cavo. Il fatto è che secondo me non regge il finale, capito? Vabbè, qui perde la omologazione, se tu gli fai queste modifiche l'omologazione la perde. Cappa, ma infatti questo non lo apro, tanto per quello che mi serve a me ce n'è d'avanzo, poi senza antenna dove vai? L'antenna è la cosa principale. Se tu riesci a metterti un'antenna sopra il tetto, da lì vai alla grande, è una bella zona. Cappa, sì, assolutamente. Poi io sto anche, l'antenna ce l'ho dall'altra parte del palazzo rispetto alla tua zona, Io ce l'ho verso Monte Oro adesso. Ho capito. Vabbè, la mia zona, te l'ho detto, è dietro via Valdegna, quindi più o meno hai capito dove. Ma comunque, arrivi abbastanza bene, per avere un antennino così va abbastanza bene con l'apparecchio. Cappa, sì, sono contento perché sono 2 giorni cercando gente, tu sei il primo che sono riuscito a trovare. E quindi sto facendo con la batteria. scappa di quelle batterie degli antifurti da bricomanda 11 euro da 7 ampere, sono due giorni con quella lì in ricezione, però 7 ampere secondo me un po' già me lo dà, poi la ricarico. Ma quanto ti può durare una batteria? Ti conviene un alimentatore che ti dà una corrente fissa e non devi stare a ricaricarlo. Con l'alimentatore ti conviene anche di quelli della Swishing che sono buoni. A Paere su mi attrezzo con l'alimentatore, esatto. Sì, ma questo era più giusto per fare delle prove in tutte le stanze della casa, perché pensavo che fosse un problema del mio apparato non sentire nessuno, capito? O se no, se non è grandi pretese, ci sono quegli alimentatori, quelli che si mettono, quegli alimentatori che si mettono dentro il computer, ce li presenti, li vendono i cinesi, ci sono da 30 ampere, da 50 ampere. Devi fare diciamo, una modifica dei fili e stai andando, c'è una ventolina, c'è tutto qua, non è che siano belli perché come estetica sono grigi, però vanno bene, va. Scappa, un'ottima idea mi hai dato, perché costano anche di meno, tanto di amperaggio quanto mi consigli? Cosa? Di ampere in uscita, quanti mi consigli per l'alimentatore? Anche 35 ampere vanno bene per quella radio lì, 35 ampere ce l'hai, ne avanza pure, se non vuoi da 35 va benissimo, tanto ce li hanno da 25, da 35, va bene anche 25, se non devi attaccare altro, vanno bene anche da 25. Ti prendi uno di quei trasformatori lì dei cinesi, devi trovare praticamente io me l'ho preso, no? Gli ho fatto l'interruttore dove c'è le alette sopra, gli ho tagliato due alette e gli ho fatto l'interruttore, l'accendo dall'interruttore, capito? Ho capito, ma tanto rimangono sempre accesi, non è come il computer che se non ha carico non si accende, solo l'interruttore li hai modificato. No, io gli ho messo l'interruttore, però tu clicchi sull'interruttore e si accende e poi lo spegni, capito? Capa, per non stare sempre a infilare e a togliere la spina, no? Allora, ho messo un interruttore di quelli luminosi, sono andato a Fusano, ho comprato un interruttore di quelli luminosi, quando tu lo accendi si accende l'interruttore, si fa rosso, poi quando devi spegnere, spegni e basta tutto lì, ma va benissimo. Io ce l'ho da 50 ampere addirittura, però me l'ho comprato dai cinesi, è un amico che gli ha comprato una ventina e me l'ha venduti due, capito? Capo, ho capito. No, vabbè, adesso anche io mi attrezzo allora per avere un alimentatore fisso. Ma costano una cavolata, 23 euro, una cosa del genere, non costano tanto. Capa. Così se non vuoi spendere tanto, se no ci sono gli alimentatori, quelli con gli strumenti, eccetera, eccetera. Però sono già alimentatori. Ma io per il laboratorio ho quello grande da 30 ampere, ce l'hai presente, duale, che serve per gli amplificatori operazionali. C'ho quello lì e un altro un po' più piccolo da una decina di ampere, però me lo compro apposta. Ma tu cosa sei, radio TV? No, io sono un appassionato di elettronica e mi costruisco più o meno tutto, analogico e digitale, programmi il computer, programmi i microprocessori, ma più per divertimento che per altro. Ho capito, vabbè. A volte sono più bravi quelli che sono appassionati di quelli che lo fanno per lavoro. Cappa, sì, ma da sempre la passione del computer, però mi piacciono questi apparati essenziali perché alla fine col computer, già lo sai, ti trovi da solo a fare certe cose, qua almeno qualcuno che ha la stessa passione lo trovi, capito? Sì, ma poi io non so, è una cosa diversa dal computer, dai. Io c'ho uno e l'altro, però il computer sì, lo uso, io il computer non so perché cosa lo uso per cantare, sono in un atto dove si canta, a me piace cantare e canto lì. Vabbè, allora abbiamo un sacco di passioni comuni, io suono la chitarra. Io canto proprio, canto le canzoni, c'è un atto dove fai le gare, fare le cover tue, capito? E insomma è una cosa bellina, a me piace, se io con la mia compagna cantiamo tutti e due. Cavolo, bello, una bella passione, complimenti. Grazie, poi ti scarica molto, capito? Ti scarica il nervoso, ti scarica tutto, tutti i problemi, tutte le cose, quando canti ti scarica. sciappa, e per me è lo stesso, quando attacco la chitarra elettrica mi metto il distorsore a tutto volume, chiaramente non è che lo puoi fare più di tanto, però ti scarica, hai ragione. Sì, sì, sì. Poi la musica per me è stata sempre una grossa compagnia, qualunque cosa faccio mi accendo la radio, sempre, ho la radio, ho metto CD, ho faccio sempre musica, anche quando mi faccio il bagno. Kappa, è già una cosa bella, tanto le altre cose della vita già ci sono più pesanti, almeno quei momenti ce lo possiamo fare, è meglio rilassarsi un po' e lasciare andare le cose. Ecco, la sto guardando il telegiornale che ti parla di Covid, di guerre, la Russia con l'Ucraina, che da una volta all'altra scoppia la terza guerra mondiale, tutte cose negative, almeno con la musica ti rilassa. Kappa, se a leggere i giornali, a guardare i telegiornali ti viene l'ansia dalla mattina alla sera, infatti è meglio non leggere e non guardarli, sono d'accordo. Per carità, a me ansia sì, la cosa si sta facendo critica. Se arriva la guerra in Europa inizia e non si sa come finisce. La terza guerra mondiale viene, perché l'America praticamente difende l'Ucraina, poi la Cina difende la Russia, insomma è tutta una questione di potenze, di grandi potenze, perché sono le più grosse che ci sono qua. Eh sì, e noi in mezzo, come sempre. E noi non ci dovremmo entrare in niente, dovrebbero arrangiarsi tra di loro, ma anche l'America, cosa si può in mezzo a fare? Ah, se li ammazzare tra di loro, cosa ci c'entriamo noi? Noi ci entriamo perché paghiamo le bollette più care adesso. Bollette, non se ne parla, benzina, gas, gasolio, eccetera, eccetera. Se poi vai a prendere la roba da mangiare ti metti le mani in testa, è tutto aumentato il doppio, tutto qua, non si può più comprare nulla. Kappa, l'aumento è stato dal 50 al 60% un po' su tutto, Sì, la luce addirittura il 40% aumentato. Sì, un'esagerazione. O se no il materiale tipo per l'edilizia è al 110%, guardati i listini prima e dopo le nuove norme ed è una cosa allucinante. Adesso che stanno andando l'edilizia con la storia del 110%, stanno andando bene, adesso hanno cominciato a aumentare materiale, aumentare questo, aumentare l'altro, e forse non rientriamo più con quella legge lì, perché non ce la fanno più. È un casino, guarda, un casino. Al cataspaccio stiamo andando, senza contare poi tutte le catastrofi che stanno succedendo, allagamenti, terremoti, questo e quell'altro, non se ne ha mai sentito, trombe d'aria, maremuti, insomma, siamo andando a cataspaccio frutto. Kappa, lì stiamo iniziando a pagare lo sfruttamento eccessivo di tante cose, perché non si era mai visto che non c'erano più le stagioni di mezzo, il vento dell'altro giorno a Milano, oppure questi mini tornado, non se ne capisce più niente. La natura si ribella, c'è poco da fare, l'uomo ha inquinato troppo, la natura si sta ribellando, e contro la forza della natura non c'è legge che tenga, la forza della natura non la combatte. Sempre uomini siamo, pensiamo di poter fare quello che vogliamo e in realtà non è così, e ogni tanto la natura ce lo ricorda. Certo che sì, bisogna diciamo, appunto, ho fatto un riepilogo di queste cose perché a volte non te ne accorgi, però ti rende nervoso, preoccupato, tutte queste cose, quindi meglio cantare e prendersela, se viene viene, se non viene è meglio così. Cosa devi fare? Tanto non ci possiamo fare nulla, noi siamo in cappuccia che comanda. Kappa, così è. E noi che siamo italiani e già la prendiamo con filosofia. Gli altri che sono troppo seri, troppo non si capisce come ragionano spesso. Però anche noi non è che possiamo sempre pagare tutto per quello che succede. E quindi per dirti no, è una passione, un'altra passione che ho è la fotografia. Poi vabbè, mi piacciono molto gli animali, ho due pappagalli che parlano e qui c'è anche l'acquario, il cane, vabbè, è un po' lo zoo. Tata, belle passioni, complimenti. Quella della fotografia è molto bella, anche quella degli animali. Questi pappagalli che parlano, gliel'hai insegnato tu? Sì, ce li ho da piccoli, li ho insegnato io. Parlano e fischiano anche la canzone della famiglia Adams. Ah, spettacolare, allora una di queste sere mi devi far sentire. Vabbè, se capita. Però non so cosa c'è, che non vanno a comando, lo fanno quando vogliono loro. E allora devi stare lì col registratore o col cellulare e registrarli. Quando stanno giocando, no, perché hanno uno specchio dentro la gabbia, c'è uno specchio. E si mettono sempre a giocare con questo specchio. E quando si mettono a giocare parlano, dicono vieni, ciao, aiuto, vieni Romeo, perché si chiamano Romeo e Giulietta, no? E parlano, dicono queste cose qua. Diciamo che ancora stanno cominciando perché non sono grandi, non c'hanno manco un anno ancora. Kappa, è una bella cosa per anche quella lì, ci vuole pazienza sicuramente. Molta, ci vuole molta pazienza, però io li libero un'ora al giorno, loro volano per la casa, con le finestre chiuse naturalmente, devi sempre assicurare che sia tutto bene chiuso, le faccio volare, mi vengono sopra, mi vengono sulla schiena, subito come volano dalla gabbia vengono da me. Cominciano a becchettarmi la catenina che c'ho, poi volano sugli armadi, volano tutte le parti, bisogna saperci convivere, se no, se non ti piacciono gli animali è meglio che non ce li abbia. Qualche cagata la fanno, però poi basta pulire e via. Cataca, ma deve avere anche una moglie molto paziente. Vabbè, per le cagate gli uomini ne fanno peggio, Sì, no, lo piacciono anche a lì. Bello, bello. No, io invece negli animali, vabbè, in appartamento, già lo sai che poca roba si può tenere se gli vuoi veramente bene. No, anche perché abbiamo bambini piccoli al momento e purtroppo non è che se ne tengano cura tanto, capito? E animali non ti piacciono? Sì, mi piacciono molto. Quando ero piccolo avevamo dei cani, sempre con i miei genitori, però in appartamento non va bene tenerli e poi sono sempre un impegno. No, io il mio cane ce l'ho in appartamento ed è come che tu mettessi un soffrabile, lui arriva a casa, si sdraia, si addormenta, non dà fastidio di nulla, non sporca perché non sporca. Quando lo devo portare giù, lo porto giù, gli faccio fare un giro e poi ritorno a casa. E non... Guarda che ti fa anche socializzare il cane, perché conosci molta gente che hanno il cane, si avvicinano, parlano, fanno, conosci tanta gente, ti fa uscire, ti sprona a uscire soprattutto a camminare, perché poi magari ti abbatti un po', nel senso che resti in casa, ti piace guardare il televisore, non ti piace muoverti, invece il cane ti sprona a uscire. Su questo già c'è ragione, perché il fatto di dover lavorare, stare al computer molte ore ti obbliga a rimanere troppo fermo. Sì, io ho mia moglie che in realtà animali non ne vuole vedere, anche se li educhi bene, insomma, e non fanno tanto casino. Io se so poco che la persona non può vedere gli animali, la evito proprio, perché io sono diverso, ecco. Tutti dicono è un cane, non bisogna trattarlo così, perché tu lo tratti troppo bene. Io per me il cane è come un figlio. Gli do da mangiare carne, pasta, non mi piace guardarli solo crocchette, gli do anche le crocchette di quella di prima qualità, però non mi piace dargli solo crocchette, lo metto in mezzo all'altra roba, le crocchette un pugno, ma li do carne, li do pasta, li metto anche carote in mezzo, li metto un po' tutto là. No, gli animali vanno trattati bene perché sono animali, hanno la loro sensibilità e soprattutto soffrono, vanno in depressione, insomma, vanno trattati bene. Poi sulla roba da mangiare bisogna stare attenti perché spesso loro hanno le esigenze diverse dalle nostre, e chiaramente non ce le possono dire, però le cose che mi hai detto vanno benissimo comunque. Allora io la pasta la cucino senza sale, la carne la bollisco, so come andare a mangiare. È il secondo cane io che ho, però ne ho avuto da ragazzino, avevo trovato una busta con questi cagnolini, e ce n'erano tre. E praticamente questi cagnolini li ho portati a casa, e mamma mi ha detto, no figlio mio, no, in casa non vanno bene, mi dispiace, però non li possiamo tenere. E c'era una casa diroccata di fronte a casa mia, mi ha detto, ascolta, facciamo una cosa, tu li fai una casetta dentro questa casa diroccata, li metti degli stracci, delle cose, e noi li portiamo da mangiare ogni giorno, li alleviamo così. Ma questi cani sono affezionati a me, se tu ti avvicinavi, facevi finta di picchiarmi, ti saltavano addosso. Ma mi aspettavano nei gradini del portone quando scendevano, sempre a casa mia. Scappa, vuol dire che ci tenevi, insomma, quindi ti riconoscevano e alla fine ti consideravano come se fossi loro padrone, no? Qualche volta mi permetteva anche di portarli a casa all'ora di pranzo, mi permetteva di farli salire e li davamo da mangiare e mangiavano con noi, però qualche volta solo, non più di tanto, no, perché anche mia madre gli aveva un po' di pena, però diceva, tre cani in casa, come faccio a tenere? E anche mamma era così da piccolo, però in realtà uno nell'orto ce l'avevamo. Io vengo da un paese, per cui, come dire, lì un po' di spazi c'erano in più, no? Rispetto a qua. Adesso però in appartamento diventa veramente difficile. E beh, se poi tua moglie non li vuole gli animali, cosa fa? Distruggi gli animali, no? Non va bene, là. Bisogna anche rispettare gli altri, non è che tutti sono uguali a noi, però a chi piacciono. Io per fortuna la compagna qui piacciono gli animali, qui li ha sempre avuti, ha avuto sempre cani, uccelli, tutto quanto, quindi gli piacciono. Scappa. No, mia moglie li ha avuti perché anche lei viveva in campagna, li aveva sempre avuti, però li ha sempre avuti grandi e per lei è un sacrificio, secondo lei, tenerli in casa e quindi per farli soffrire, eccetera, preferisce non averli. Mamma diceva questo, che gli animali hanno bisogno dei loro spazi. Dice, figlio mio, gli animali hanno bisogno dei loro spazi. Se noi li prendiamo in casa stiamo male, noi stanno male loro. È meglio che uno c'ha un cortile, una campagna, allora va bene, ma in casa dice non fatto devi. Io sì, avevo i canarini a casa, quelli me li facevo attraverso l'acquario a casa di mamma, li ho sempre avuti, però avevo anche dei canarini che facevano i figli, tutto quanto, li regalavo, ma diciamo animali grandi come i cani, i gatti, eccetera. Invece quando poi mi sono sposato, ho avuto il gatto, poi ho avuto per 19 anni, cresciuto insieme a mia figlia, poi è morto dopo 19 anni, quindi poi ho preso il cane, vabbè, poi ho cambiato anche la compagna, quindi gusti diversi e cose diverse. Gli animali sono un impegno, non è che te li prendi e dopo diventano soprammobilini. Se sono grandi, hanno bisogno di spazio, lo spazio ce lo devi avere, altrimenti soffrono e non è giusto. Sì, vabbè, ma io c'ho uno Sharpei, non è che è grande, è media taglia, dai. È un cane che si può tenere, non è peloso, quindi non lascia molto pelo. Solo il periodo che lo cambiano, qualche po' di pelo lo perde, sì, però non è una cosa eccessiva, capito? Ma ci sono quei cani pelosi, tipo maremmani, tipo pastori tedeschi, che cosa, quelli non li può tenere in casa, eppure c'è gente che li tiene. Ne conosco anch'io molti, e anche lì è questione di scelta e anche di tempo che gli dedichi, delle uscite il fine settimana che fai in spiaggia, magari a correre o in campagna, insomma, e anche lì è tutta una questione di dedizione. Guarda, il mio per la difesa e per la guardia, diciamo, sembra così, però è molto aggressivo, devo stare anche attento, perché diciamo che chi non conosce non accetta le accarezze, carezze, niente. Se ti conosce ti dà il cuore, ma se non ti conosce non ti permette di avvicinarti. Scappa, e anche quello c'è, è sempre una responsabilità, quindi anche microchip, veterinario, tutti questi passaggi, no? Sì, il mio è tutto in regola. Il mio c'ha vaccini, c'ha il microchip, c'ha tutto quanto. È vaccinato tranquillamente, sempre se un minimo così lo porto al veterinario a controllarlo. Perché sono anche cani molto delicati, se prendi del pollo si fa subito a diarrea. Kappa, sì, sono molto delicati. Però sono anche belli, sono affettuosi, ti danno un sacco di affetto e di soddisfazione. Sì, è vero. No, chi non ce l'ha il cane non riesce a capire l'affetto che dà, vive troppo poco il cane, per quello che si merita vive troppo poco. Kappa, mia moglie secondo me non lo vuole perché si è fatta troppi pianti di affezione quando sono venuti meno, capite? Lo so, in effetti fa male. Io conosco diverse persone che avevano il cane, che ci trovavamo quando io portavo il mio, i suoi erano vecchi e sono morti e ha detto che non ne vuole più sapere di cane, no, non ne voglio più sapere, sono fatto troppo. Kappa, infatti sotto sotto penso che sia lo stesso per tante persone. Mio padre per esempio ce l'ha sempre avuto in campagna, ma da quando è morto l'ultimo non ne vuole più sapere perché gli è dispiaciuto troppo. Le flebo gli faceva lui, mattina e sera, cose allucinanti. I cani sono affettuosi anche con le persone che li trattano male, capito? È quello che hanno. Anche se tu li tratti male sono affettuosi col padrone. E io ne ho visto certi che ce n'è uno che c'è un pastore tedesco che lo prende a colpi di guinzaglio, lo strattona, lo fa, qualche volta li chiamo le guardie zuffi, lo vedo. Lo tratta un bel male. E non se lo merita nemmeno quel cane. Se tu vedi quel cane c'ha un garrese eccezionale come cane, guarda, è eccezionale, c'è Abbasato dietro, praticamente era il cane della cinufila di Abbasato, allora, siccome loro se non sono perfetti li scartano, se magari non obbediscono a tutti i cosi, a tutti i comandi come vogliono loro li scartano, capito? Gliel'hanno regalato questo qua, ma lo tratta malissimo. Vabbè, che peccato, bisogna starci attenti agli orologi perché hanno dei diritti che qualche anno fa non avevano gli animali, secondo a chi trovi sono guai. Allora, anche l'altro giorno c'erano le guardie zuffiche vicino a casa, sono entrati con la macchina e hanno controllato tutti i microchip dei cani, quindi se capitano le guardie zuffiche quando lui lo sta trattando male quel cane glielo soffertano subito immediatamente. Guarda, sul maltrattamento degli animali c'è il penale adesso, specialmente cani e gatti non li puoi trattare male, ed è giusto così, perché non si possono difendere loro. L'altra volta stavo passando io col mio cane, il mio cane è un pochettino attaccabile, lo stava abbaiando, lui si stava per girare, e l'ha preso, l'ha tutto... tutto scosso fatto, ma non smetti, ha preso il guinzaglio e ha dato un colpo di guinzaglio, capito? Quello è stato un istante che lo picchi e mi ha guardato male, ma come ne fatti da fare più? Tanto qualche colpo ti esce con qualche figlio, ma ormai sempre più raramente, è meglio a parole anche per gli animali, tanto lo capiscono lo stesso quando si è arrabbiato. Infatti, non si picchiano. Io il mio lo tratto bene, lo tratto come un figlio. Quando io sono con i cattoni di vano viene, mi lecca, mi fa, si avvicina a me, mi appoggia il muso sul divano per accarezzare, no, è troppo bravo, è troppo buono. È buono, il mio è buono, però se lui è solo in casa non fa entrare a nessuno. Lui è fatto così. Quando c'è gente, sente rumori strani, si avvicina subito alla porta senza abbaiare, perché è furbo, aspetta se entra qualcuno. Kappa, vuol dire che è un cane intelligente. No, l'unica cosa secondo me che il padrone deve fare nel benessere del cane è fargli capire chi è il capo, perché il padrone deve essere sempre il capo, mai il cane. Se ti guardi in giro, guarda quanta gente c'è che il capo è il cane e il gregario è il padrone. Io quello sempre, il capobranco sono io, prima entro io in casa e poi entro il cane. In ascensore prima entro io e poi entro il cane. Sempre così deve essere, se no lui capisce di essere il capobranco e fa quello che vuole. Esatto, e lì non lo tieni più, e lì non rispetta e fa tutto il resto. Come i bambini, sono come i bambini. Vabbè, certo. Purtroppo molta gente non li tratta bene. Il mio, vabbè, adesso sta mangiando poco perché ha voglia di accoppiarsi e non trova. Praticamente lo charpé che ho io è lo charpé in base, non è quello americano ma quello cinese. Quello americano è quello col pritende, c'è quello col muso largo, tutta a pieghe, eccetera, eccetera, che sembra un ippopotamo. Non è quello lì, è quello, perché quello lì è il mio incrociato col ciucciu, perché gli americani hanno fatto questa razza americana, capito? Il mio è proprio l'originale cinese, la razza base. Cappa, ma è piccolino allora come cane? No, è media taglia. Media taglia, ma sei liscio mi hai detto, no? Che non hai il pelo lungo. No, non ha il pelo lungo. C'ha, diciamo, il muso con un po' di pieghe e le orecchie a conchiglia. Cappa, ce l'ho presente. Ma quindi è di razza, insomma, puro come animale? Sì, il mio è puro. I miei genitori hanno più di lui, tutti e due. No, è un cane bellissimo il mio. È che non te lo posso far vedere, certo l'avrei fatto vedere. Cappa, ma l'hai comprato o te l'hanno regalato? Comprato. Ho capito, quindi c'è tutto il pedigree, insomma. Quel cane non te li regala nessuno. Diciamo che l'ho comprato e ho fatto un mezzo affare, dai. Perché questo qui stava vendendo su subito, ne aveva 6 e li stava vendendo 950 euro l'uno. Io gli ho detto che sì, mi piaceva, c'era uno che mi piaceva, però era troppo il prezzo che non ci arrivava, anche se ce li avevo conservati, perché me li avevo messi apposta, a parte per comprare quel tipo di cane. Lui mi ha detto, guarda, io prendo il tuo numero di telefono, se non riesco a vendervi magari ti posso fare un prezzo migliore. E niente, io me l'ho già dimenticato, mi telefona questo qui, mi fa, guardi che ancora c'ho i cani e siccome ce li ho già quasi 2 mesi, e sono in appartamento, stanno facendo un casino, se lo vuole glielo do senza come si chiama, vaccino e senza sverminare, se lo fa lei e gli faccio qualcosa in meno. E così abbiamo fatto. Cappa, quella è stata un'occasione. E da quanti anni ce l'hai? Adesso compie 7 anni. Compie 7 anni il 16 di marzo. Cappa, quindi è già un bel po', è bello. E ma è sempre atletico, sempre ha voglia sempre di giocare, rimasto a giocare loro, con le femmine gioco. Cappa, ma quando sono così sono belli, almeno la mattina ti danno un po' di brio e poi devi stare sicuramente un po' appresso, ma alla fine c'è anche soddisfazione. Guarda, lui non mi scoccia nemmeno, mi lascia preparare, mi lascia lavare, tutto quanto, faccio tutto quello che devo fare per non prenderlo proprio giù. Non si lamenta di niente, a meno che stia male. Allora è un altro paio di mani che mi fa capire che deve andare per forza. Cappa, ho capito. Vabbè, vuol dire che è un animale intelligente. Cappa, adesso attacco un altro apparecchio, perché questo qui oramai l'ho usato tanto. Se voglio attaccare un altro per vedere come esco. Questo che sto attaccando è un apparecchio base, si chiama Ruiz, non so se tu lo conosci. È un bellissimo apparecchio. È un apparecchio base degli anni 75-80, dai. Bellissimo, tutto illuminato, con 3 strumenti, verdi, c'è l'orologio, c'è tutto quanto. Adesso lo attacco, andiamo 5 minuti. Cappa, intanto sono qui, è un'altra mezz'oretta, posso stare, dopo c'è una riunione di condominio, ok? Ci sei? K ci sono. Fai un passaggio un po' più lungo. Guarda, come va questo qua? Questo è il Ruiz. Bene, sei chiaro, non hai il riverbero di prima, forse un po' più di rumore di fondo, ma non è detto. Rifai un altro passaggio. Vabbè, questo qui è un apparecchio, te l'ho detto di quando era. È bellissimo, se lo vedi, è uno spettacolo da vedere. A me è piaciuto, a me piace tanto come apparecchio. L'altro lo stesso era un apparecchio molto bello. Di solito io mi attacco sempre a apparecchi che mi prendono all'occhio, dai, diciamo che mi piacciono. K, no, si sente benissimo, chiaro, la, come si chiama? Il suono c'è tutto. No, io mi ricordo il tornado di una volta, ma si usa ancora? Io ho voglia, ci sono ancora i tornado, li sono ancora vendendo. Molti li hanno modificati anche come apparecchi e vanno molto bene. K, me lo ricordo, c'era un sacco di funzioni anche quello, bellissimo. Vabbè, vuol dire che adesso piano piano, adesso se riprende la passione e c'è un po' di gente con cui parlare, magari anch'io rinizio a ricostruire qualcosa nell'anno, lo va? E poi ne attaccherò un altro, se ci sei ancora, ne attacco un altro, ti faccio sentire un altro, la stazione base della Intec. E quello lo uso molto poco, lo uso pochissimo, infatti mi sa che me lo vendo perché lo sto usando molto poco, quello della Intec, e solitamente uso questi. Cappa, no, questo si sente bene, ma che microfono hai, da tavolo oppure un mic normale? No, è un microfono da palmo, ma è una statica, un preamplificato. Cavolo, si sente molto bene, ma hai cambiato anche il microfono, lo passi da un apparecchio all'altro? Allora, io il microfono originale ce l'ho, però quando me l'hanno mandato aveva i contatti staccati, quindi avevo un altro microfono, gli ho fatti i contatti nuovi e ho usato questo qua amplificato per farmi sentire meglio. Cappa, no, si sente benissimo, ma anche questo lo attacchi all'alimentatore o fa tutta la batteria? Allora, questo qua va a 220 e anche a 12 volts, c'è solo un commutatore per commutare e puoi usarlo sia in un modo che nell'altro. Cappa, ho capito, e adesso lo stai facendo funzionare come a 12 volts, suppongo? Sì, adesso l'alimentatore acceso sta a 12 volts. Cappa, no, si sente bene. No, oggi cavolo è una serata spettacolare secondo me. E poi ne altri due l'ha fatti, altri uno, due, tre l'ha fatti sentire. Ripeti scusa il passaggio. Ho detto, ne ho altri tre l'ha fatti sentire. Fammi sentire, così ti dico com'è la qualità. Allora, secondo me il primo era forse un po' più chiaro di questo, anche con e senza quell'effetto. Questo c'ha forse un po' di rumore nella portante, rumore di fondo. Come stacco, siete tacchi, no? Esatto, all'inizio del passaggio soprattutto, però una volta e poi è chiarissimo, Sì, ma questo che è la prerogativa dell'apparato, non è un difetto, Chi è che ha detto compro? Io vieni che sono io, vendo. Vendo, compro tutto, forza. Cosa stai vendendo? Questo sto usando adesso, sta roba qua, dai, forza, se no la butto. Cattolo, io sono a completo, buonasera comunque. Sono con un amico di vecchia era che ha ripreso a modulare, avanti di nuovo. Boh, appena acceso già, non so chi sia. Buonasera, no, dai, mi sto spostando già e sto facendo roba. KK, saluto a tutti, sempre il vintage con l'M600 già. Un bel forte, sì, un bel forte. Questo qui invece è il Ruiz, Luca, ti piace? Con questo ti ascolto, è una meraviglia, con l'altro, già intanto è inutile che te lo dico, se vuoi ti registro, questa è una cannonata. Adesso provo ad attaccarlo, l'altro, e mi registro davvero, aspetta. Ecco. Ciao Luca, io sono nuovo e ti saluto. Ciao, buonasera, è entrato qualcun altro, avanti? Ciao Luca, sono Cristian. Ciao, mi chiamo Andrea e non modulo da una ventina d'anni e stasera mi sono trovato per caso in questo canale e speriamo di riuscire a risentirci. Certamente, se ti piace la compagnia, guarda, aspettiamo un secondo a Gianni che rientra, così lo registro che mi devo spostare, Kappa va bene, così vediamo come si sente. Da dove moduli, Luca? Anima Delta, ciao Cristian, sì che ti sento, buonasera. Ciao amico, basso basso. Amico, come ti chiami? Non mi ricordo. Io mi chiamo Andrea e modulo da Sassari, zona via Mendola. E tu da dove stai modulando, Luca? Io da Latte Dolce. E Andrea da via Mendola, Cristian. E Cristian ti ascolta basso, mi sa. No, io già ti ascolto, io a Puglia. Cristian lo sento lontanissimo, proprio pochissimo. Io ci sono. Andrea. Gianni. Papà, sì. Come mi ascolti in radio con questo apparecchio qua? No, ti sento chiaro, diverso dall'altro, forse meno potente ma molto chiaro. Kappa, kappa. Luca, avanti, registrami che voglio sentirmi come esco da te. Vai, ti sto registrando. Via. Probabilmente il tipo di microfono, adesso provo anche con le camera a vedere se cambiando il microfono cambia anche la modulazione. E vabbè, ma è probabilmente perché siamo vicini, non lo so. Guarda, io 1, 2, 3, prova tecniche di trasmissione. Ciao Cristian, dove sei? A casa. Capito, è lavorare a fare adesso, all'estate, la tutta la tua classe. Oh, però cocco. Io faccio quello lavoro, oggi pomeriggio, ho preso di ferie, lavorati da casa, mi sono rotto, c'è la tua classe che la tutta, ti hai riparato. È interessante che sei riuscito a non pagare, la spesa è zero. Medjugorje. Cristian, come mi ascolti di radio? Io sempre bene, caro. Luca è un enigma da risolvere. Allora, sai cos'è? Che io muovo la barra mobile e ti sento bene. In vicinanza forse è diverso la radio, capito? E beh, Lu, registratemi. Ehi, te l'ho mandato già. Te l'ho mandato, però l'altro giorno è peggio, molto molto peggio, capito? Va bene, dai, ti ho mandato registrazione, ciao a tutti che mi devo spostare. Aspetta un attimino, che voglio fare una prova con Super City. Quando parli a voce bassa te lo peggiora, quando alzi la voce te la migliora, capito? Ma a me come mi sentite? Come mi sentite a me? Tu non ti sento, c'è la talino. Oh, guarda con Super City Kick. Va benissimo questo. Per me dovresti lasciare questo. A me mi hanno detto che era meglio l'altro. Boh, vai, capisci e tu. Ma io come sto uscendo? Televisore. E la mia bella è la radio, Natalie. Questa è Super Sidekick. Ehi, a bella è. Vabbè, c'è Andrea che è nuovo. Fatelo andare avanti, dai, che io faccio un attimino un lavoretto. Fai lavoretto, le mani, mamma mia, vabbè, dai. Capo, buonasera a tutti. No, vi sto ascoltando con piacere, vi sento tutti bene. E voi come mi sentite? Gioco per me, X, dai. Fate parlare Andrea, che stava parlando. No, dicevo, buonasera a tutti, come mi sentite? Perché io sto uscendo con un antennino magnetico dal balcone. Io ti sento un po'. Non so se Natalino ti ascolta, perché ho visto che non ti hanno risposto, ho paura che non ti ascolti. Già lo ascolto. Kappa, ma Natalino da dove sta modulando? È vicino al mercato civico, dai. Kappa, io sono in via Mendola. Già ti ascolto bene comunque. Anche se ho l'antenna un po' capottata, già ti ascolto lo stesso, dai. Io non so come mi stai ascoltando tu. No, a fondo scala, Natalino, fondo scala. Tu sei quello che mi arriva più potente. Kappa. Gianni, come ti arrivo io a te? Ma stai parlando con me, con Andrea? No, con Gianni stavo parlando, gli stavo dicendo come gli stavo arrivando. Questo com'è, Andrea? Come mi ascolti con questa radio qua? Con questa sei chiarissimo, ma molto molto chiaro. La radio forte! la radio è fortissima, ma tu mi, la chiarezza del microfono questa volta supera tutte le altre per quanto mi riguarda. E mi avevo detto di tu di rilasciare quell'altro, adesso non so prima lui cosa fa. Questo è l'apparecchio che c'era prima con un altro microfono, col Turner Super Sidekick. Per me questa è la ricezione migliore tra tutte quelle che hai fatto questo pomeriggio. Adesso ne tocco un altro di apparecchio, che sicuramente tu avrai conosciuto nei tuoi tempi, ed è il 3009, lo conosci? Qua vediamo un po' se hai vietti.